Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente delle dichiarazioni, dell'intervista oggi del ministro Padoan in prima pagina sul Sole 24 Ore, in cui rivendica una pressione fiscale che cala al 42,4% e però si dice preoccupato di un'inflazione bassa. Sul contante ammette di aver cambiato idea sul passaggio da 1000 euro a 3000 euro, a differenza di ministro Padoan, molto modestamente, noi non abbiamo cambiato idea, chi vi parla resta dell'idea che sia una misura sbagliata, sia per l'impatto economico, ma soprattutto per il messaggio che dà nel paese che detiene il record di evasione fiscale. Poi abbiamo criticato nel passato i modi in cui venivano fatti gli accertamenti e anche l'andamento degli studi di settore, però detto questo lo Stato non può dare messaggi così ambigui, ma non voglio tornare sul tema dei 1000-3000 euro, so che molti ascoltatori invece la vedono con favore e va bene. Però parleremo anche di questo nel giorno in cui, visto che Padoan nell'intervista a Sole 24 Ore citava anche il mondo bancario, nel giorno in cui il mondo bancario tra virgolette scopre che le sofferenze bancarie sono aumentate, e sofferenze vuol dire i crediti inesigibili del sistema bancario sono saliti, toccano quasi 200 miliardi di euro, le sofferenze lordi 200 miliardi di euro, quelle nette sono 85,9 miliardi. Il rapporto sofferenze lorde delle banche sugli impieghi bancari era del 10,5% ad agosto del 2015. I prestiti, così tagliamo la testa al toro, restano in calo anche a settembre. È chiaro che crescono i nuovi mutui, però quello che interessava noi erano anche e soprattutto i prestiti alle imprese. Eccolo lì quello che mi scrive: ma quale evasione, ma vai a sì, va bene, secondo lei l'evasione non è un problema in questo paese, ne prendiamo atto, però chi vi parla ritiene che sia un problema. Assieme ai costi di una pubblica amministrazione inefficiente c'è anche un nero, e non stiamo parlando degli scostamenti di una volta degli studi di settore per cui venivano perseguitati delle volte artigiani e commercianti, parliamo dell'evasione vera, quella che ammonta a circa 200 miliardi di euro l'anno. Detto questo, continuo invece con l'ABI, perché fa notare l'Associazione delle Banche Italiane che resta in calo anche a settembre il totale dei finanziamenti alle famiglie e alle imprese. Non è un grosso calo, meno 0,2, ma sicuramente non sono ripartiti i finanziamenti, e questa è una media. Cosa che continuiamo a dire anche guardando come controprova i dati sull'utilizzo delle banche, da parte delle banche anche italiane, dei soldi messi a disposizione da Mario Draghi purché li prestino a imprese, famiglie, non per i mutui. La raccolta, la domanda, scusatemi, è bassissima da parte delle banche europee, incluse quelle italiane. Sono aumentati solo i mutui per la casa, più 86% le erogazioni, per il 30% si tratta di surroghe, quindi anticipo la domanda, il resto sono invece nuove erogazioni. Vedo che ancora qualcuno scrive sulle commissioni dei pagamenti elettronici, avete ragione, secondo me bisognava insistere perché i circuiti bancari abbassassero quelle che sono le commissioni per l'utilizzo di bancomat, ma soprattutto carte di credito, quella era la strada. E spingere, guardate che su questo è stata molto chiara la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, la Orlandi, e tutte le raccomandazioni, gli studi che arrivano sono di un maggiore utilizzo di pagamenti tracciabili. Andiamo avanti sul resto, parleremo quindi del mondo bancario, delle dichiarazioni del ministro Padoan al Sole 24 Ore, e poi partiremo subito col rapporto Censis sulla sanità. Il Censis oggi denuncia come a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, il 41% delle famiglie, quasi il 42%, nel 42% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare alla prestazione sanitaria, e il fatto che gli italiani paghino di tasca propria il 18%, quasi un quinto della spesa sanitaria totale, oltre 500 euro pro capite, contro il 7% della Francia e il 9% della Gran Bretagna. Ora, ecco il tema delle tasse. Le tasse vanno pagate, ma poi va fatto un controllo su quello che è l'utilizzo, perché in Francia le tasse sono alte quasi come in Italia, in alcuni casi sono anche più alte, però poi solo il 7% dei cittadini ricorre a pagare la sanità di tasca propria. In Gran Bretagna sono più basse mediamente, eppure metà degli inglesi rispetto agli italiani ricorre ai soldi propri per pagarsi le spese sanitarie. Parleremo anche dell'indagine confermata a questo punto, dell'inchiesta, scusatemi, confermata, la procura di Spoleto ha aperto un'inchiesta oggi nei confronti del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che sarebbe indagato assieme ad altre persone per corruzione e truffa sul commissariamento della Banca Popolare di Spoleto e la successiva vendita al Banco di Desio. La Banca d'Italia aveva fatto sapere di non essere a conoscenza dell'indagine, però poi è stata confermata dalla Procura di Spoleto l'iscrizione nel registro degli indagati del governatore Ignazio Visco. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le notizie in breve. Sono d'accordo con alcuni ascoltatori che scrivono ancora sui 1000 euro di contante, portate 3000. Se non hai intenzione di evadere, avere 1000 euro in contanti o avere 3000 euro in contanti non serve a nulla. Chi è contento dell'innalzamento della soglia lo è per l'ovvia intenzione di evadere. Io sono abbastanza d'accordo, mi dispiace, insomma, se no non si capisce quale sia la differenza. Poi leggeva anche le dichiarazioni degli albergatori, ma gli stranieri. Allora, l'abbiamo spiegato molte volte, gli extracomunitari possono avere fino a 15.000 euro di contanti, potevano già avere, devono dimostrarli. Sui comunitari, adesso io per carità, ma tutti questi inglesi, tedeschi, francesi che vengono con le paccate di banconote per pagare gli alberghi, io non ne ho mai visti. Io ho visto molte volte situazioni in cui il ristorante non funziona la carta di credito, in alcuni taxi, soprattutto diciamo da Roma in giù, non c'è proprio la carta di credito. Questo ho visto, ma gli stranieri che arrivano con le valigie di contanti, che non possono spenderli per pagare l'albergo, boh, ma dove? E poi ripeto, non è il problema di quello che vogliono gli albergatori, i ristoratori, il problema è il messaggio che dà lo Stato. Allora, restiamo sull'economia internazionale invece. Partiamo dalle borse. Parigi meno 0,70, Francoforte meno 0,20, Londra invariata, l'America invariata in questo momento. Euro su dollaro a 1,13,48. Tra i titoli segnalo bene Unicredit più 3% e A2A più 1,80, Enel Green Power più 0,70, Atlantia più 0,40. Il fronte opposto invece vede Luxottica cedere il 3,30% come Ferragamo, Tenaris meno 2,70 come Mediolanum e il Monte dei Paschi, TOZ meno 2,5 come Telecom Italia, il 2,30 europea del Banco Popolare e Saipem, il 2% il calo di Fiat Chrysler e della Popolare Emilia Romagna, Azimut e Dexor in calo dell'1,7%, Moncler dell'1,5%. Visto che parliamo di Moncler e del lusso, chiaramente ieri la notizia dell'economia cinese che cresce, attenzione, lo disse anche un nostro ospite recentemente, non è che una crescita del 6,8 sia da buttare via, è sempre una crescita importantissima, soprattutto con quei volumi, visto che non stiamo parlando del 6,8% di crescita dell'Austria, con tutto il rispetto, ma della Cina. Detto questo, quello è un paese che si era abituato che una crescita sotto il 7% significasse non poter garantire, l'abbiamo raccontato molte volte, l'inurbamento della popolazione, quindi il passaggio che si verificava fino al 2008, erano circa 15 milioni di cinesi che ogni anno si trasferivano dalle campagne alla città. Allora, Perché lo dico? Perché oggi il Tesoro americano ha dichiarato che la valuta cinese, lo yuan, è al di sotto di una valutazione appropriata di medio termine. E faccio notare che molti, anche imprenditori del lusso italiano, segnalano come più che il rallentamento del PIL cinese sotto il 7%, quello che stia pesando sull'export verso la Cina è soprattutto la svalutazione del yuan, perché ha perso circa il 20% e le tue merci costano il 20% in più, più che il rallentamento, diciamo, nella produzione di ricchezza cinese. Comunque, alla Cina, ma anche ai nuovi investimenti che la Cina ha annunciato in Sudafrica. Sappiamo che la Cina da 15 anni ha operato una colonizzazione silenziosa di carattere produttivo con scambi bilaterali dell'Africa, di buona parte dell'Africa. Ecco, dicevo, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma di oggi è del vice direttore Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La Cina è in crisi? A giudicare dalla borsa sembrerebbe di sì, visto che ogni volta che giungono notizie di un rallentamento dell'economia cinese, tutte le borse mondiali cadono, gli economisti si allarmano e gli investitori di borsa ritirano i soldi in portafogli. Ma in realtà come sta veramente la Cina? Se il tasso di crescita, come dicono il governo cinese e come ritengono gli analisti, non sarà più del 7%, ma sarà del 6,5%, farà poca differenza. La Cina continua ad essere il paese con le maggiori riserve valutarie e il paese anche che di fatto nelle economie in via di sviluppo cresce di più e più velocemente. Ma non cresce soltanto la ricchezza nazionale, continua a crescere soprattutto le somme in denaro che la Cina dà ai paesi in via di sviluppo e in particolare all'Africa. Già da più di 10 anni la Cina è il principale finanziatore delle infrastrutture in Africa, infrastrutture parliamo di ponti, strade, ferrovie, impianti elettrici, rete elettrica e persino internet, battendo addirittura la Banca Mondiale e le altre organizzazioni internazionali che sono preposte agli investimenti nei paesi in via di sviluppo. Però la sorpresa vera è stata proprio oggi, perché la Cina ha annunciato un regalo di 50 miliardi di dollari proprio al Sudafrica e ai paesi limitrofi per finanziare l'ammodernamento delle strade, della rete elettrica e dell'insieme delle infrastrutture che devono servire a garantire una migliore qualità della vita alle popolazioni africane. È un regalo? Beh, è un regalo anche interessato, visto che la Cina oggi, soprattutto nel settore petrolifero, è il principale partner dei paesi africani, ma non solo nel petrolio, ma anche nelle altre materie prime. Come dire, si fa carità, ma è una carità che dall'altra parte porta anche un rendimento per il paese cinese in termini di influenza. L'Occidente dovrebbe riflettere, non sempre gli aiuti sono soldi che vengono dati al vento. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sempre in tema di tasse, ma questa volta riguarda l'armonizzazione fiscale in Europa, sta la catena di caffè, diciamo famosissima americana, Starbucks e Fiat, potrebbero trovarsi a dover versare decine di milioni di euro di tasse quando l'Unione Europea emetterà nei prossimi giorni una decisione storica sull'elusione fiscale. Dovrebbe arrivare già domani il cosiddetto tax ruling, come si chiama in gergo. L'elusione fiscale non è l'evasione fiscale, lo chiarisco a tutti, è però la possibilità, sfruttando le diverse normative fiscali, di pressione fiscale in Europa, di eludere il fisco, non di evadere, ma di eludere il fisco nel paese in cui tu produci un fatturato anche importante, perché appunto trasferisci le sedi legali, quelle fiscali da in altri paesi più vantaggiosi. L'annuncio del Financial Times, che cita alcuni casi, alcune fonti, secondo cui appunto Fiat e Starbucks sarebbero la punta dell'iceberg. Starbucks potrebbe versare meno di 30 milioni di euro, più vaghe invece le stime su Fiat. La Commissione Europea domani riprenderà appunto l'esame del tax ruling. Anche da fonti comunitarie però arriva la notizia che le due società potrebbero dover versare alcune centinaia di milioni di euro di tasse non pagate. L'antitrust europea aveva già aperto un'indagine sul tax ruling, ovvero gli accordi fiscali tra le autorità tributarie di Lussemburgo e Olanda, dove Fiat Trade and Finance e anche Starbucks sono basate. Poi ci sono anche la Apple, coinvolta per la sua sede fiscale in Irlanda, e Amazon, che ce l'ha sempre in Lussemburgo. Fiat ribadisce in una nota che comunque non c'è stato nessun aiuto di Stato in Lussemburgo, quindi nessuna trattativa, nessun accordo con il Lussemburgo. Aggiunge Fiat, qualsivoglia esito della questione non sarebbe significativo rispetto ai risultati consuntivati dal gruppo. È veramente un brutto periodo, cambiamo tema, per Deutsche Bank. Non solo le maxi perdite, la riorganizzazione, la decapitazione di tutti i vertici, diciamo, di Deutsche Bank, ma oggi si è scoperto, lo cita il Financial Times, che quest'estate, per colpa di un nuovo assunto, la qualifica era junior, nel desk dei cambi, insomma, Deutsche Bank ha pagato a un suo cliente per sbaglio 6 miliardi di dollari. Ci sono volute diverse, chissà, cliente, insomma, chissà che cosa ha fatto. Sarebbe interessante capire cosa è successo poi al cliente che si vede ricevere 6 miliardi di dollari e non dice niente, giustamente, perché tutto il mondo è paese. E a Deutsche Bank ci sono volute diverse ore per riconoscere l'errore. I fondi comunque sono stati recuperati il giorno successivo, evidentemente non era ancora riuscito a spenderli. Allora, vedo ancora messaggi, ha ragione chi mi dice lei la smetta di dire da Roma in giù. Ho solo fatto notare che, per esperienza anche diretta, il pagamento dei taxi con carta di credito da Roma in giù è difficilissimo. A Roma difficile, a Napoli difficilissimo. Non ho detto che qui ce l'abbiano tutti. Ancora, per quello che riguarda, ha ragione chi dice, oltre che ridurre le commissioni bancarie sulle carte di credito, bisognava anche andare con, ci sono i controlli incrociati. Sì, devono funzionare i controlli incrociati nei paesi in cui non c'è il limite. Germania, Gran Bretagna, funzionano benissimo i controlli incrociati, per cui puoi usare il contante che vuoi, ma la fatturazione poi viene fatta. Dai, lo sappiamo che non è questo il motivo. Del resto, quando tu fai una norma che impone agli esercenti di avere, non di utilizzare, ma di avere la carta di credito, le carte di pagamento, bancomat, ma poi non c'è nessuna penale, cosa aspetti? Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Prima di arrivare al rapporto del Censis, adesso vi arriviamo sull'utilizzo degli italiani della sanità e quanta parte delle spese sanitarie viene coperta direttamente oppure non si ricorre alle cure mediche per risparmiare. Faccio notare due cose. Intanto, torno, visto che me lo chiedete, sul canone RAI in bolletta. Lo studio e la simulazione fatta da Sole 24 Ore assieme a ICOM dimostra quanto già ci disse il sottosegretario Zanetti, e cioè che se tu inserisci il canone in bolletta e vuoi mantenere 1.600.000.000 di euro come gettito, che è il gettito attuale, puoi far pagare tranquillamente il canone 80 euro e non 100 euro. Perché altrimenti avrai un gettito più alto, vicino ai 2 miliardi, il 2 miliardi e 30 milioni di euro. Con un canone a 100 euro arrivi a 2 miliardi e 400 milioni, cioè quasi il 50% in più di quanto incassato. Quindi il governo, e anche in caso di una evasione al 10%, arrivi a 2 miliardi e 300 milioni. Quindi il governo deve dire o che con il canone in bolletta vuole recuperare più canone, oppure che vuole mantenere il gettito a 1 miliardo e 6, lo mette in bolletta in modo che lo paghino tutti, ma a questo punto c'è un vantaggio per chi già lo pagava, perché scende da 130 a 80 euro. Questo, diciamo, modestamente avevamo visto in maniera un po' spannometrica che ci si arrivava anche con un calcolo rapidissimo. Per quello che riguarda l'INPS, invece, oggi l'INPS comunica i dati sui pensionati italiani con un assegno con meno di 1000 euro, sono il 42,5% degli italiani. sotto i 500 euro di assegno, è chiaro che ci sono anche molte reversibilità, però sono 6 milioni e mezzo di persone, tra l'altro 6 milioni e mezzo, scusatemi, di persone sono quelle che hanno meno di 1000 euro, 1 milione e 900 mila persone sono quelle che hanno meno di 500 euro, chiedo venia. I dipendenti pubblici sono a tempo indeterminato, sono scesi sotto quota 3 milioni di dipendenti, sono calati di quasi il 3%, 90 mila persone in meno, 2 milioni 953 mila. E poi il presidente dell'INPS Boeri dice: sarebbe stato importante con la manovra del 2016 fare l'ultima riforma delle pensioni. E nella legge di stabilità ci sono interventi selettivi e parziali che creano asimmetrie di trattamento, lo dice Boeri. Presumibilmente in assenza di correttivi daranno spinta a ulteriori misure parziali che sono molto costose. E poi Boeri ha fatto notare che nel 2014, nei primi 9 mesi del 2015, sono andate in pensione, grazie alle salvaguardie sui lavoratori esodati, 45.000 persone. Avremmo voluto che il 2015 fosse l'anno dell'ultima riforma delle pensioni. Purtroppo così non sarà. Si è scelta una strada di interventi, ancora una volta, selettivi e parziali. Servono apparentemente per contenere le uscite, i costi di queste operazioni. Purtroppo notiamo come spesso non sia così. Perché gli interventi selettivi alimentano, come sempre, che creano nuove asimmetrie, una domanda crescente di estensione di questi servizi, e già oggi costano moltissimo. Nei dati che oggi renderemo pubblici sui flussi verso il pensionamento documentiamo come dal 2014 e 2015 sin qui ci sono state 45.000 uscite nell'ambito delle salvaguardie con pensioni piene. Un'operazione, quella delle salvaguardie, che è costata già 11 miliardi alle casse dello Stato. Quindi il messaggio è chiaro: se fai misure parziali rischi di avere un costo altissimo e non hai risolto comunque il problema. Vedo ancora molti messaggi sull'evasione, mi scrive un commerciante: quando mi arrivano i polacchi con un furgone per caricare quello che ho in giacenza e spendono anche 6-7 mila euro, cosa faccio? Li mando via? Ho capito. Allora, diciamo che siccome lei mi sta parlando di nero, no? Perché non penso che questi 6-7 mila euro lei li fatturi se sono pagati in contanti. Chiedo, no, perché sennò non capisco, sennò veramente. Però. Allora giustifichiamo il nero, ma allora mettiamo la soglia a 15.000, 20.000, 30.000, perché anche 3.000 non le va bene a questo punto. Presidente del Censis Giuseppe De Rita, buonasera. Buonasera a lei. Poi magari una battuta sull'evasione, sulla soglia del 1.000-3.000 euro, ma gliela chiedo anche se non è questo il motivo per cui l'abbiamo invitata, perché oggi voi siete usciti con un rapporto molto importante su quanta parte della spesa sanitaria ricade sugli italiani come costo di tasca propria e anche quanti italiani nell'ultimo anno non hanno fatto ricorso alla prestazione sanitaria per le spese alte nel privato e le lunghe liste d'attesa nella sanità. Le chiedo ancora 2 minuti di pazienza, che ho il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Allora, il 41,7% delle famiglie italiane, in almeno un caso, cioè una persona, nel corso dell'anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria a causa delle lunghe liste d'attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata. I dati sono del Censis e sono riferiti al 2014. 3 milioni di italiani non sono autosufficienti e la spesa annua delle famiglie di circa 10 miliardi. E poi c'è la parte di quanto gli italiani pagano di tasca propria. Allora, nel ringraziare di nuovo il presidente del Censis De Rita per averci raggiunto in collegamento, cito un, non sono mai autoreferenziale o biografico, però ieri io ero ad Amsterdam non per farmi le canne, ma per visitare il più importante responsabile ortopedico sul malleolo. Allora, perché ho un malleolo che mi fa ancora zoppicare. Caro professor, presidente De Rita, essendo anche figlio di medici e frequentando purtroppo negli ultimi anni molto gli ospedali, devo dire che, come al solito, noto che l'ospedale, voglio essere volutamente biografico, era abbastanza simile a quelli italiani. Adesso io frequento quelli del soprattutto del nord del paese, ma insomma non è che la struttura fosse hollywoodiana rispetto alla nostra fatiscente. La preparazione dei nostri medici non sta a me giudicarla, ma sappiamo che ci sono centri di eccellenza. Sa qual è la differenza più grossa che ho notato ieri, al di là del fatto che l'appuntamento fosse fissato alle 13:55, minuto spaccato, e anche il fatto che comunque stai parlando del luminare, del malleolo a livello europeo? È il livello di, potremmo chiamarlo reception, l'accoglienza. Cioè hai tre livelli, arrivi, ti danno un primo... poi hai la reception, l'accoglienza anche nel reparto, poi se devi fare la radiografia anche lì. Cioè non c'è il caos di pazienti che girano per gli ospedali italiani bloccando e disturbando anche infermieri, medici che camminano, mi scusi, dove devo andare? Cioè tutto molto, si potrebbe chiamare il front desk, cioè l'accoglienza è molto, è un filtro continuo, perché tu arrivi poi in reparto e non c'è confusione, non c'è nessuno che chiede dove andare, hai... ti seguono con tutto, diciamo, il tesserino, il badge in ogni fase di questi vari incontri, oltre al fatto che tutti ti diano la mano, compreso il radiologo, quando ti incontra si presentano e si salutano. Quindi questo era per citare il problema di organizzazione. Voi in realtà citate, oltre all'organizzazione, che conta però, perché dite come Censis che le lunghe liste di attesa sono uno dei motivi per cui gli italiani o non si fanno curare o pagano di tasca loro. Presidente. Sì, è vero, c'è un problema della lunghezza delle liste d'attesa, ma c'è anche il fatto, ci sono anche due aspetti fondamentali. Il primo è che l'italiano, se si sente male o c'ha qualcosa o un dubbio sulla sua salute, vuole la risposta subito. E quindi piuttosto che aspettare anche due settimane per andare in ospedale a farsi i controlli, preferisce l'analisi privata, preferisce il medico privato. C'è questo problema del rapporto con il tempo, che per i malati italiani è fondamentale, certo. Sono troppo ansiosi e quindi abbiamo voglia di sapere se, e quindi ci facciamo la visita, dopo la visita ci facciamo l'altra, dopo l'altra ci facciamo l'TAC, ma vogliamo escludere che quel doloretto che ho al costato non sia una polmonite, un tumore ai polmoni. Cioè, e dice, siamo anche noi un po' ipocondriaci e ansiogeni. Certo che quando mi scrive un ascoltatore che mi dice che ha chiesto una colonoscopia in data 2 luglio 2015, prenotata all'ospedale Santa Maria Terni per il 13 dicembre 2017, uno il colon fa tempo anche a dimenticarselo, abbia pazienza, non è un problema di ansia, è un problema che hai l'ansia di sapere se sei ancora vivo quando hai l'appuntamento, che è un'ansia un po' diversa. Però il grosso dei soldi va, il grosso dei soldi privati va in quella direzione. Ok, quando uno la seconda cosa è vogliamo saper tutto e vogliamo qualcuno di cui ci fidiamo. Vabbè. Il che naturalmente anche il migliore ospedale italiano, il migliore, con i migliori specialisti, non c'ha mai per il cittadino italiano medio quella conoscenza personale o conoscenza di amici che dice ma io vado da uno perché mi fido di quello. Non si fidano della struttura, non si vogliono piuttosto sapere se il medico di base ha detto no, guarda che il meglio per fare l'aneurisma, per operare l'aneurisma della aorta addominale sta al San Raffaele a Milano, il che è vero. Tu guarda lì, non è che fai la domanda. Allora, mi faccia però dire una cosa, dite, perché alcune persone dicono: ah, chissà, no, quello che ho pagato, visto che immaginate che era un ospedale pubblico olandese, sì. È chiaro che mi sono dovuto pagare lo spostamento io, e ci mancherebbe, però quello che ho pagato per questa visita ammonta a 200 euro, che è tanto, per carità, ma non è una cifra astronomica, no. Da dire che in Italia invece te la regalano. Ok, quindi attenzione, che stiamo parlando di sanità pubblica, gli olandesi pagano ancora pagano le tasse sulla sanità. Non sono andato, diciamo, in qualche clinica, qualcuno scrive, ah, vado in Svizzera, no, no, è tutto pubblico, tutto prenotazione pubblica attraverso il computer da Milano, lì sta, ti mette, ti dico, ti danno la data, l'orario spaccato al minuto, vai lì, non aspetti. Allora, perché lo dico, Presidente? Perché secondo me noi ce la prendiamo spesso sulle spese della sanità con i medici italiani e con le spese sanitarie, perché abbiamo delle discrepanze nel paese pazzesche. E gente che ci marcia, e 32.000 centri appaltanti, di cui molti nella sanità, per ordinare siringhe, fotocopiatrici e quant'altro. Però forse c'è un problema ancora più grosso nei manager di sta sanità, cioè in chi dirige le ASL. Perché... Assolutamente, quando lei diceva all'inizio c'è un problema di accoglienza, è un problema di organizzazione dell'accoglienza, perché noi diciamo che la tragedia degli ospedali italiani sono i pronto soccorsi, che sono il dell'accoglienza, diciamo. L'accoglienza a lei è una cosa se deve andare a fare una visita specialistica ad Amsterdam, ma l'accoglienza delle migliaia di persone che entrano nei pronti soccorsi romani è un'altra cosa, però è lì, nell'accoglienza, nell'organizzazione del primo momento, nell'organizzazione del modo di prendere il malato e poi smistarlo all'interno. Sì, è un problema più manageriale, infatti a chi mi dice... lei sta così offendendo la qualità, no, ho detto che noi abbiamo una qualità degli ospedali, non è che mi occupi di questo nella vita, però altissima delle volte anche di medici, non mi sembra un problema del tant'è che così sciolgo anche l'enigma, il grande medico olandese mi ha detto la stessa cosa, ortopedico però, che hanno detto altri ortopedici italiani, per cui non ho detto che ho trovato un genio e qui ho trovato degli ortopedici cani, ho detto l'opposto, ho detto che la vera differenza non è neanche nella struttura, non è nemmeno vero che fosse hollywoodiana, è nel rapporto con il paziente, nell'organizzazione che non compete ai medici, manageriale dei reparti, tutto qua. Ma se lei è milanese, io sono romano, ma se io penso a Roma, il policlinico di Roma ha le migliori teste, le migliori mani, le migliori clinici che ci siano, tutto sommato in circolazione. Quando uno entra al policlinico, gli piglia l'incubo, questi sotterranei sporchi, questa disorganizzazione. È proprio l'alternativa, la contraddizione fra un buon livello tecnico del personale, almeno di medico e chirurgico, e la pessima organizzazione. Io infatti immagino che il filtro è anche l'organizzazione delle visite. Mi scrive un altro ascoltatore, suo padre ha dovuto aspettare 6 mesi per verificare la aorta addominale dilatata, capirai, sul cuore, tramite ecografia ha rischiato la vita, di questo anche stiamo parlando. Beh, però Delita, poi adesso al traffico, l'ultima domanda per lei, ma lei ci sta dicendo che la parte degli italiani che paga di tasca propria è anche un po' colpa degli italiani stessi, cioè di un eccesso di ansia o di ipocondria? Sì, perché c'è un problema, se lei vede una delle tabelle che abbiamo presentato stamattina, la domanda è, ma secondo lei la copertura pubblica dei tuoi bisogni è aumentata, si è ridotta o è rimasta uguale? L'italiano che risponde dice... si è ridotta, il 53% dice si è ridotta la copertura pubblica. Alla domanda, diciamo così, di contrapposizione, la spesa di tasca propria è ridotta, è rimasta uguale o si è ampliata? Si è ampliata per il 53%, identico il CES, cioè il 53% dice che si è ridotta la copertura pubblica e 52,8 dice che si è ampliata la spesa privata, quindi è chiaro che c'è questa diciamo così soggettività personale all'interno della realtà ospedaliera. Ma io devo dire che adesso, considerando tutti i tagli fatti alla cavolo, perché un conto è pagare la siringa o il plasma uguale, altra cosa è tagliare la sanità a 3 miliardi e poi dire arrangiatevi, così le corruttele continuano ad andare avanti, le spese storiche continuano ad andare avanti invece delle spese standard, ma penalizzi le parti efficienti, e devo dire che anche in questa manovra finanziaria purtroppo assistiamo ai tagli alla sanità fatti così. Però dico, io, l'esperienza delle persone con cui parliamo e anche del sottoscritto è abbastanza buona della qualità dei medici italiani, lo ripeto, cioè non, adesso per carità, non, ma quello che noti è la disorganizzazione, l'incapacità di gestire appunto le liste d'attesa, anche di selezionare. C'è poi tutto il tema, non voglio tornare sul tema dei controlli chiesti dai medici per tutelarsi da un punto di vista legale, su cui il governo imparzialmente vuole intervenire. Resti con noi, Derita, però, perché dopo il traffico, un'ultima domanda da farle, ma non riguarda la sanità, riguarda la reazione del paese sui 1.000-3.000 euro, perché lei, come sociologo che da sempre analizza lo scheletro contadino di questo paese, forse una risposta in più me la può dare. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Che gli ascoltatori sono molto interessati a perché io sia andato a farmi visitare da un ortopedico a Amsterdam, ma perché dopo averne viste tante in Italia ho visto anche uno all'estero. Quando hai un grosso problema di salute cerchi, diciamo, di frequentare e di farti visitare da chi è considerato uno dei massimi esperti. Sui 200 euro che mi è costata la visita, fatevi un giro tra gli ortopedici italiani, non è una cifra, l'ho pagata non a lui, all'ospedale, per cui va bene, come in Italia. Ripeto, non è solo la qualità, non è questa cosa stellare, è l'organizzazione. Però Derita, mi dica una cosa, questo paese spaccato in due, non voglio darvi il titolo per il prossimo rapporto Censis, che noi vediamo sui 1.000-3.000 euro, non è solo il PD e parte della maggioranza spaccata in due, cioè io ricevo messaggi di due tipi: oh, ha fatto bene il governo, basta con questa persecuzione, voglio essere libero di spendere, e messaggi indignati che dicono il messaggio che ha dato il governo è devastante in un paese in cui il nero è da record. La sua opinione? La mia opinione è che il nero è da record, non ci sono dubbi su questo, è impressionante. Io che può dire, fra virgolette, scoperto l'economia sommersa a Prato nel 68-69, quindi 45 anni fa, e allora mi sorprendeva tutto questo giro di nero fatto dai miei amici pratesi. Oggi invece tutto è nero, è ritornata in gioco una logica e una voglia di sommerso che non finisce mai. Allora, se il sommerso è così forte, se il nero è così invasivo, che cosa si fa? O lo si blocca su tutto, o si dice è una fisiologia del sistema. Io onestamente, pur avendo avuto qualche critica sull'argomento, io ritengo che il sommerso italiano sia una fisiologia del sistema. Cioè lei non lo ritiene, eliminabile? Non ritengo eliminabile. No, eliminabile nemmeno io, ma riducibile, insomma. Che ci possono essere delle azioni della politica. Non lo fai sul 1.000 o i 3.000 euro, non ci sono problemi su quel. Lì puoi ridurre, in quel caso lì puoi dare spazio o ridurre o controllare delle spese in nero delle 1.000, 2.000, 3.000 euro se c'hai il giardiniere, il falegname, l'idraulico che ti chiede, anche il dentista, anche l'avvocato, anche il notaio, ne abbiamo viste di categorie. È il sommerso spiccio che però è quello in questo momento il più invasivo possibile. Quindi, di fronte a un aumento del nero per prestazioni sotto i 3.000, tu non puoi far nulla. Okay. Naturalmente, se vai sopra, sì, certo, allora, se come diceva quell'imprenditore, diceva, se mi arrivano i polacchi mi danno 8.000 euro in nero e si caricano tutto quello che c'è in magazzino, io sono ben contento. Ma allora arriviamo a livelli più alti dove sì, ho capito, dice, lì non va a intaccare. Io personalmente non sono d'accordo con lei, cioè ritengo che, come tutte le disuguaglianze, ingiustizie, si debba combattere anche per la lotta all'evasione, quella grossa, quella importante, per carità, senza accanimenti. Prendo atto, diciamo, della sua, non dico rassegnazione, ma quasi. Grazie al presidente Censis Derita. Allora, mi stanno scrivendo molti italiani invece che hanno avuto ottime esperienze nella sanità con i figli e quant'altro come lista d'attesa, magari qualcuno leggo anche dopo vorrei occuparmi dell'inchiesta con la collega del Sole 24 Ore dell'inchiesta che ha coinvolto, con Sara Monaci, che ha coinvolto il governatore della Banca d'Italia. Intanto però GR24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso dell'inchiesta che riguarda il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Allora, una precisazione agli ascoltatori, perché quando su questo ospedale di Amsterdam dove sono andato ieri, attenzione, no, ero un comune mortale, sì, perché obiettivamente con tutto quello che si può immaginare di Radio 24 in Olanda non è conosciuta. Uno, due, l'ospedale era pubblico e la cifra era di 200 euro, e ripeto, non mi ha sorpreso né la qualità del medico, perché ho incontrato bravissimi professionisti anche in Italia, ci mancherebbe, poi da figlio di medici fatemi spezzare anche una lancia a favore della preparazione dei medici italiani, non dappertutto lo sappiamo, né la struttura in sé, che ho trovato molto simile, anche delle volte peggiore, a alcune strutture italiane che ho visto. La sorpresa è vedere la parte manageriale dell'ospedale, la gestione. Allora andiamo a chiederci come vengono nominati alcuni direttori di ASL in Italia, qual è il ruolo anche della politica nella gestione manageriale e amministrativa delle strutture sanitarie italiane, se vogliamo dirla tutta. Ma non è il resto, poi ci saranno anche strutture pazzesche, ma non nella mia esperienza. Andiamo avanti invece con il tema che riguarda Visco, di perché è indagato Ignazio Visco per una vicenda che tra l'altro parte nel 2010, perché nel 2010 la banca di Spoleto non sembrava essere una delle banche migliori in Italia, nel senso che aveva una raccolta di 2 miliardi e mezzo di euro, i prestiti in sofferenza erano appena 150 milioni, eravamo già nel 2010, quindi 3 anni dopo lo scoppio della crisi, la redditività oltre il 10%, la banca era controllata, è controllata dal 51% della cooperativa Spoleto Crediti e Servizi e al 26% dal Monte dei Paschi. Comunque la Banca d'Italia invita la banca a sostituire il presidente Antonio Giovannini, giudicato troppo accentratore. Poi nel 2012 la situazione della banca improvvisamente precipita, la procura apre un'indagine sugli ex vertici, Banca d'Italia espone una nuova ispezione e blocca il previsto aumento di capitale, Monte dei Paschi liquida la sua quota e se ne esce, la Banca d'Italia a quel punto commissaria la Popolare di Spoleto e anche la società cooperativa. Nel 2014 i commissari decidono la vendita della Popolare di Spoleto al Banco di Desio, e secondo gli ex soci che si vedono azzerare il valore delle partecipazioni ignorando un'altra offerta più vantaggiosa. Questa è l'accusa degli ex soci, che dicono: l'avete venduta al Desio e non a un'altra offerta. A febbraio 2015 il Consiglio di Stato annulla il commissariamento e quindi sono illegittimi anche i provvedimenti disposti dai commissari, tra cui la vendita ad Esio. Io dico, come si fa in un paese a vivere quando tu hai dei commissari che fanno una cosa, giusta o sbagliata che sia, vendono, e poi nel 2015 qualcuno dice nel Consiglio di Stato che non potevi mettere commissari, quindi non valgono i loro atti. Partono i ricorsi, ma chiedo alla nostra Sara Monaci come mai in tutta questa vicenda, che è anche uno spaccato di come funziona la giustizia da noi, viene coinvolto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Sara. Sì, questa ultima vicenda sembra un po' l'ultimo episodio, come un atto dovuto di un racconto più lungo che è quello che hai riassunto tu. Chiaramente la questione oggi sale agli onori della cronaca, perché il nome di Ignazio Visco è un nome che chiaramente è impossibile non notare l'apertura del quotidiano del Fatto Quotidiano. Quindi l'indagine è per truffa e corruzione, quindi diciamo accuse molto molto pesanti. Sembrerebbe però, e questo, di questo ci stiamo occupando proprio in queste ore, di ricostruire la vicenda, che sia un'accusa indiretta che riguarda i commissari e poi chi ha firmato il commissariamento e di conseguenza Ignazio Visco. Si dovrà aspettare quindi probabilmente qualche chiarimento anche da parte degli inquirenti per capire il reale grado di coinvolgimento di Visco, anche se si sente già dire in queste ore che si tratterebbe più di un atto dovuto. Chiaramente la vicenda è di quelle un po' spinose proprio per il motivo che tu hai sottolineato, c'è un commissariamento di una banca a ragion veduta, perché è una banca che ha avuto una serie di irregolarità tra il 2007 e il 2012 tipiche di molte popolari, cioè prestiti certo. date senza controllo, una serie di controllate che venivano tenute in vita artificialmente, quindi sostanzialmente una banca che faceva un po' quello che voleva. A un certo punto interviene Banca Italia per decidere un commissariamento contro cui si appellano i primi soci, con un TAR che dà ragione invece a Banca Italia. Successivamente, non contenti i soci, quando Banca di Spoleto viene ceduta al Banco Adesio, sì, viene di nuovo fatto un ulteriore ricorso e questa volta il Consiglio di Stato dice il contrario di quello che diceva il TAR, ovvero che il commissariamento era non tanto, badate bene, illegittimo, perché se poi si legge gli atti è ancora più complicato. Non dice illegittimo, dice che le motivazioni erano sensate, ma avrebbe dovuto indagare più approfonditamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e quindi a quel punto, dato che il Ministero non aveva fatto adeguatamente le sue valutazioni critiche, di questo si parla, valutazioni critiche, allora tanto vale annullare tutto il commissariamento e ritornare da capo. Il Ministero però cosa fa? Insiste e dice che il commissariamento invece può proseguire nonostante la decisione del Consiglio di Stato. Questo in questo tira e molla, esplode quindi questa nuova inchiesta che arriva 10 mesi dopo dalla decisione del Consiglio di Stato e qualche mese dopo dall'esposto dei soci, che di nuovo a luglio dello scorso anno fanno un esposto in procura, perché dicono che, dato che il Consiglio di Stato ha deciso che il commissariamento non esiste, la cessione Adesio quindi non ha motivo di essere proprio perché il commissariamento non c'è più, allora tanto vale fare un esposto in procura e sollevare il caso. Il problema dei soci poi fondamentalmente qual è? Quello di riavere il controllo della banca e avere delle azioni con il valore che ahimè è perduto e credo irreversibilmente, perché evidentemente quella banca non c'è più e anche quel sistema con cui veniva tenuto in piedi è ormai considerato superato proprio dalla storia. Esiste anche una riforma sulle popolari a ragion veduta, ecco. Sì, devo dire una cosa, adesso figuratevi se io conosco qualcosa in più di quanto conosce Sara Monaci della vicenda, però è obiettivamente una giustizia che insomma non si può reggere così. Non so se ha ragione il Consiglio di Stato, il TAR, però come... Mi dico, anche chi va a commissariare una banca deve poter sapere il commissario che lavora cosa fare, non vende Adesio e dopo un insieme di ricorsi alla fine il Consiglio di Stato annulla tutto e i commissari non potevano vendere Adesio. In tutto questo, e sottolineiamolo, insieme a Visco i commissari si ritrovano indagati pure loro in questa vicenda. Certo. Perché la vicenda oggi riguarda 7 indagati, di cui uno Ignazio Visco, gli altri sono anche i 2 commissari, oltre che tutto il consiglio di sorveglianza. Quindi diciamo, dopo aver lavorato per questa riorganizzazione, oggi si ritrovano anche con un'indagine in corso. Certo. Chiedo alla nostra Eleonora Micheli di Radio Colle Sole 24 Ore, che saluto per la borsa. Buonasera Eleonora. Buonasera. Non c'è stato effetto in borsa su questo, no? Perché adesso... Prego. No, direi di no. Le banche oggi sono state deboli, ma è stato un po' un andamento generalizzato, tutte fatta eccezione di Unicredit, che è salita quasi del 3% sull'ipotesi riferita da un giornale austriaco che possa cedere le attività retail in Austria. Sì, appunto, questo mi interessava anche per passare nel ringraziare Sara Monaci al prossimo approfondimento che riguarda la borsa. Meno 0,70% Milano nel finale, meno 0,60% Parigi, meno 0,1% Francoforte e anche Londra. Dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento Focus Economia. Allora, Don Micheli, al di là dei bancari, oggi di nuovo molto debole il lusso, meno 3,60% Luxottica, meno 3,30% Ferragamo, Tod's meno 2,60%, Moncler meno 1,40%. Eh sì, in questo caso fa paura il rallentamento dell'economia cinese. Ieri abbiamo visto che il PIL nel terzo trimestre è salito del 6,9% e questo fa temere un rallentamento anche nelle vendite di tutti i gruppi del settore. Poi delle banche, già dicevi tu, chiaro che il dato dell'ABI sull'aumento delle sofferenze bancarie che vicina i 200 miliardi lordi, le sofferenze lorde, scusatemi, ha penalizzato i titoli bancari e soprattutto le popolari: Banca Popolare meno 2,70, Monte dei Paschi meno 2,60, Pop Emilia Romagna meno 2,20, Pop Milano meno 1,5%, più contenuto il calo di Intesa San Paolo meno 0,50%, e Unicredit invece in positivo più 2,70%, assieme ad A2A più 1,12%. E poi c'è la vicenda Fiat, dove Fiat oggi ha perso il 2%, Unicredit da un lato e Fiat dall'altro. Sì, Fiat FCA meno 2%, oggi a incoraggiare le vendite è stata, oltre che la corsa del titolo registrata nelle ultime sedute, nelle ultime settimane, nell'attesa del debutto che domani avverrà a Wall Street di Ferrari, è stata anche la notizia che la società potrebbe ricevere una multa fino a 200 milioni di euro da parte dell'Unione Europea, Unione Europea che ha puntato l'indice su quella che è la posizione dell'azienda in Lussemburgo, che sarebbe, secondo appunto l'Unione Europea, sotto forma di aiuti di Stato, visto che la tassazione agevolata all'1%. Questo, diciamo, ha dato là una serie di prese di beneficio, ricordando la crescita delle azioni registrata nell'ultimo periodo. Unicredit, come ho già detto prima, invece è salita proprio su quest'ipotesi che la banca effettivamente possa riuscire a cedere le attività retail in Austria, si dice per 800 milioni di euro. Sarebbe ovviamente un'operazione che non solo fa entrare nelle casse di Unicredit 800 milioni, ma migliorerebbe proprio anche la posizione finanziaria del gruppo. E poi ultimo titolo, mi riferisco, andiamo già sui migliori e peggiori della seduta: Worldfila più 7,30, Industria e Innovazione più 5, Mondo TV più 4,20, fronte opposto Saras meno 12,2, Fincantieri meno 7, di Dimei Group meno 4%. Saras, immagino che pesi l'uscita di Rosneft. Esatto, infatti c'è stata questa notizia sorpresa sul collocamento delle azioni da parte della russa Rosneft, che ha venduto a investitori istituzionali l'8,99% del capitale, rimane ancora con il 12% delle azioni, ha assicurato che non le venderà e ha assicurato soprattutto a UBS, che ha collocato i titoli, che non venderà ulteriori azioni almeno per 180 giorni. Ricordiamo che le azioni sono state vendute a 1,9 euro, oggi le Saras hanno chiuso a 1,84 euro. Grazie Donna Michele, Radio Corriere del Sole 24 ore. E passiamo all'ultimo tema, ossia le novità della lunga intervista, due pagine, presente oggi in apertura su Sole 24 ore al Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Allora, dico subito che la cosa che più mi ha sorpreso di tantissime cose che sono presenti in questa intervista è, da un lato, la missione di aver da parte di Padoan, che ha cambiato idea sul contante da 1.000 a 3.000 euro come elemento quasi di colore, ma non solo, perché su questo il PD, la minoranza PD, non l'ha presa in maniera colorata o colorita. E invece l'altro è il fatto che sulla spending review sia stata fatta una scelta politica, quindi ammettendo che, insomma, lì la decisione non è stata di carattere economico. Però vorrei sentire invece gli elementi che più hanno sorpreso uno dei presenti, ossia il vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché. Buonasera Fabrizio. Ciao, buonasera. Allora, ci sono tantissimi numeri, non possiamo ripercorrere tutta la manovra, e ne abbiamo parlato a lungo anche con i colleghi del Sole 24 Ore. E la pressione fiscale cala al 42,4%, è il vostro titolo di apertura. Però, per girarti la domanda, a te cosa ha sorpreso di più rispetto a quello che avevamo letto nei giorni scorsi e detto nei giorni scorsi? Ma tu hai colto, diciamo, i due aspetti più politicamente forse rilevanti, che sono appunto sul contante ho cambiato idea. Evidentemente Padoan si è dovuto sottrarre, poi la pressione che stava aumentando anche a livello parlamentare sulle contraddizioni delle sue dichiarazioni di un anno fa rispetto poi alla decisione di quest'anno. e sui tagli di spesa, la scelta politica in particolare sulle tax expenditure, dice Padoan, cioè sugli sgravi fiscali, perché lì Renzi ha voluto togliere tutto quello che potesse essere sospetto di aumento di tasse, e quindi tagliare tax expenditure di fatto è registrato da un punto di vista contabile come taglio di spesa, quindi rientra nella spending review, ma di fatto è un aumento di tasse, perché tu vai a togliere uno sgravio fiscale a delle categorie che quindi poi vanno a pagare più tasse. Sono i due punti politici sui quali chiaramente la decisione di Renzi, Padoan nel fare queste dichiarazioni nel nostro forum, capiva, direi anche dalla mimica facciale, che intendeva dire è una scelta non politica, che riguarda tecnicamente, forse aver preso anche delle decisioni diverse, questo non l'ha detto, ma insomma forse si può intuire dalle sue parole. Nel merito, le due novità forse principali che emergono sono appunto questo dato sulla pressione fiscale, perché, come dire, al di là delle dichiarazioni, finora numeri su questo non erano circolati e c'era comunque il sospetto di alcuni osservatori che poi alla fine la pressione fiscale potesse non calare. In realtà, in effetti, questo dato, se sarà confermato dalle tabelle finali, ricordiamolo sempre, Sebastiano, noi ragioniamo su un qualcosa di metafisico, perché i testi della legge finanziaria, della legge di stabilità, ancora non sono noti. Vabbè. Si spera che tra stasera e domani questo lavoro di affinamento, di cambio, di messa a punto dei testi venga finalmente completato e finalmente possiamo vedere le famose tabelle che ancora non abbiamo visto. Però Padoan ci anticipa questo dato di 42,4%, che significherebbe un lieve calo della pressione fiscale. Lieve calo, qui la questione diventa un po' più complessa, insomma i tuoi ascoltatori sono molto esperti, per cui forse un ragionamento un po' più di dettaglio si può fare. La pressione fiscale e tendenziale era 44,2, quindi sarebbe scesa di quasi 2 punti, ma in realtà il tendenziale a legislazione vigente e al netto del bonus di 80 euro e delle clausole di salvaguardia era già al 42,6. E qui se usiamo come parametro il 42,6 in realtà poi scende solo di 1 o 2 punti. Cioè diciamola tutta, se leviamo quello già fatto, gli 80 euro e quant'altro, la pressione fiscale dal 42,6 va al 42,4, esatto, usiamo il netto, non il lordo. Ecco, cala ma non troppo. Ecco, per concludere Fabrizio, però la sensazione che ho ricevuto, vorrei una risposta rapida su due domande. La prima è insomma che anche Padoan, come tu già ricordavi, pur con dei distinguo, dei silenzi, ha fatto capire che questa finanziaria, e non c'è niente di male, basta dirselo, ha un'impostazione fortemente politica rispetto a altre finanziarie degli anni passati che servivano a mettere in sicurezza il paese, a ridurre lo spread e quant'altro. Cioè sono scelte politiche, giuste o sbagliate, ma politiche, non dovute all'economia. Il secondo aspetto, se me lo chiarisce, è quando Padoan dice ci vogliono banche più forti e probabilmente più d'una, perché un conto è parlare delle operazioni di fusione e aggregazione tra le popolari, altra cosa è citare banche più forti guardando anche più in alto, non solo le popolari. Allora, la prima domanda è più semplice, la seconda è più difficile. Sulla prima domanda, sicuramente questa è una manovra che dà a tutti e da tutte le categorie sociali, da molto anche agli autonomi, è una manovra politico, se vogliamo elettorale, ma insomma si può anche non usare in senso spregiativo. Anche senso politica e basta, diciamo. È un tentativo insomma di fare una manovra che guarda a tutti, tant'è vero che c'è una certa sofferenza poi a sinistra, perché forse visto da sinistra guarda un po' troppo anche al centro, l'area destra dello schieramento. Sulle banche, e qui chiaramente il riferimento a Padoan, appunto, anche qui non è stato esplicito, ma quando lui dice che banche siano più forti e più d'una, come dire, da una parte appoggia un certo consolidamento delle banche che quindi devono crescere, perché in Europa è un mondo che è cambiato, l'Europa, anche le nostre banche devono crescere ulteriormente, più d'una è più sofisticato, perché come tu sai nelle settimane passate è circolata l'ipotesi di un progetto che portasse a un accorpamento dei nostri grandi gruppi bancari, sì, quasi ad avere un'unica banca che è rivolta verso l'interno e una banca che è rivolta verso l'esterno. Quando lui dice più d'una, sembra preferire un modello che prevede una competizione comunque sia all'interno o sia all'interno sia poi nella proiezione, certo, internazionale. No, anche perché te l'ho chiesto, perché nel passato, tra le varie voci, che noi non ce ne occupiamo quasi mai, era circolata anche l'ipotesi addirittura di un'aggregazione tra le due principali banche, Unicredit Intesa con altre banche, ma di tutto abbiamo letto, ed era importante che Padoan dice meglio se più d'una e non dice una grande banca, per